Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Are you really ready for some Super Dynamite Soul? Allora, siete veramente pronti per lo show di Super Dynamite? Sto per presentarvi il più grande entertainer del mondo, Mr. Dynamite. Lo stupefacente Mr. Piace Piace a se stesso, il migliore di tutto lo show business. Signore e signori, la star dello show! La voce che sentite è quella di Fats Gonder, famosissimo presentatore americano degli anni 60. Il suo discorso è esaltante, come sempre e stasera ancora di più. L'eccitazione che si respira all'Apollo Theater di Harlem, New York, è incredibile. È il 24 ottobre del 1962 e sul palco sta per arrivare un personaggio assolutamente unico. Questa presentazione, così sopra le righe, si verifica ogni volta che questo cantante si esibisce. È un modo per scaldare il pubblico, se mai ce ne fosse bisogno. Ha addirittura un nome, si chiama Opening Fanfare, fanfara di apertura. Ma ascoltiamo ancora Fats Gonder, e lui a dirci chi è la star, a modo suo, naturalmente. Sì, signori, James Brown, Soul Brother Number One, the hardest working man in the show business. Il più grande lavoratore dello spettacolo, Mr. Dynamite, il padrino del soul. Sono tanti gli appellativi che si guadagna nel corso di oltre 50 anni di carriera straordinaria colui che è appena salito sul palco. Considerato l'inventore della funky music e uno dei più influenti musicisti della nostra epoca, James Brown non canta, non suona, non urla. Lui prende semplicemente possesso del palco, del pubblico, ne cattura l'energia, la filtra attraverso la sua anima e la rigetta centuplicata nella sala. È l'essenza stessa del soul, una forza incontenibile per una performance che ogni volta è un'esperienza indimenticabile. Voglio che le persone, quando vengono ai miei concerti, abbiano di più di quello che si aspettavano. Voglio che il mio concerto sia un'esperienza intensa, che alla fine se ne vadano quasi stanchi per quanto hanno ballato e cantato, perché questo è il motivo per cui sono venuti. I Magnifici Destini di oggi vi presenta James Brown, un artista appassionante, coinvolgente, un personaggio determinante nella storia della musica popolare contemporanea, considerato da molti storici l'iniziatore di una serie di filoni tra cui il già citato funky, ma anche il soul, perfino un anticipatore del rap. Oggi cercheremo di percorrere le tappe di quella che è stata senz'altro una vita vissuta a 100 all'ora, fatta di successi stratosferici, ma anche di arresti, abusi di alcol e droga, furibonde liti con la moglie di turno, inseguimenti rocamboleschi con la polizia, impegno sociale contro le discriminazioni razziali. Vi racconteremo soprattutto quali sono i magnifici destini della sua vita, quegli incontri che hanno contribuito a influenzare lo sviluppo della sua carriera musicale in maniera determinante. Il primo luogo dove vi portiamo non è proprio bellissimo. È l'Alto Reformatory di Toccoa, cittadina a circa 150 km da Atlanta, in Georgia. Sì, un carcere minorile. La nostra storia incomincia qui, nel 1949. L'America è un paese fantastico. L'unico al mondo dove inizi facendo illustra scarpe a 6 anni, finisci in reformatorio per rapina e arrivi ad essere ricevuto dal presidente in persona. James Brown ha il dono della sintesi. In due frasi c'è tutta la sua vita. Ha ragione. Negli Stati Uniti, come in nessun altro paese, la possibilità di riscattarsi è un dato di fatto oggettivo. Ci sta pensando mentre si trova in cella. A 16 anni, e dietro le sbarre di quel riformatorio, ci è finito per una rapina andata male. Non è che abbia rubato granché, un po' da mangiare, qualche maglietta, un paio di dischi. Poi ci prova con un'auto, ma lo beccano. Peccato, perché se è vero che viene da una famiglia poverissima, che praticamente cresce per la strada, allevato da una zia prostituta e fa illustrascarpe per pochi centesimi, è anche vero che ha un talento naturale per la musica. Canta, balla, suona parecchi strumenti, dimostrando doti naturali incredibili senza avere mai studiato. C'è una canzone in particolare che gli piace tantissimo, Caledonia, di Lewis Jordan. Walking with my baby, she got great big feet. She long, lean and lanky, and they had nothing to eat. But she's my baby, and I love her just the same. Crazy about that woman, 'cause Caledonia is her name. Ascoltandola, pensa che sarebbe bello diventare uno showman, un cantante e un intrattenitore come Jordan. È grandioso far divertire la gente, farla star bene, e dopo 13 anni e molti successi, se ne ricorderà interpretando Caledonia a modo suo. In un riformatorio c'è ben poco da fare, e la musica rappresenta per James Brown uno scopo, qualcosa che gli riempie le giornate. Insieme ad alcuni compagni di cella mette su un gruppo gospel. Cantano durante le funzioni religiose e si costruiscono perfino degli strumenti. Per lo scopo, fare un po' di rumore, vanno benissimo un pettine e della carta, un mastello di plastica per fare il basso e una specie di mandolino realizzato con una scatola di legno che lui suona conquistandosi il primo dei soprannomi, Music Box. Sono passati 3 anni da quando ha messo il piede lì dentro e James passa così le sue giornate. O suona o gioca a baseball. Ed è proprio durante una partita tra la squadra del riformatorio e un gruppo di ragazzi di un oratorio vicino che nella vita di James Brown entra qualcuno. Un vero magnifico destino, un incontro dopo il quale niente sarà più come prima. A quel tempo io avevo 18 anni, James 19. Giocammo una partita uno contro l'altro. Dopo lo sentii suonare e cantare. Era pazzesco. Io avevo un gruppo gospel e pensai, cavoli, se venisse a suonare con noi, faremmo scintille. Bobby Bird, destinato a diventare una delle figure mitiche del rhythm and blues, grande cantante soul, talent scout, produttore discografico. È lui il magnifico destino che la vita fa incontrare a James Brown e che li vedrà collaboratori strettissimi per oltre 20 anni. Al tempo di quella partita di baseball al riformatorio, Bobby è un ragazzo devoto, molto impegnato nella comunità religiosa di Toccoa. È membro del coro della sua chiesa e ha un gruppo, i Gospel Stralighters, dove canta anche sua sorella Sara. Bobby rimane talmente impressionato dalla bravura di James che decide di fare tutto ciò che è in suo potere per averlo con sé. Peccato che debba scontare ancora 5 anni di carcere. Ma forse c'è una soluzione. Ne parla con i suoi genitori. I Bird sono una famiglia brava, unita, per bene. E siccome qualche volta i miracoli accadono, il 14 giugno 1952 il detenuto James Brown lascia l'alto riformatorio di Toccoa da uomo libero. Ha firmato una lettera di intenti. Prometto che mi troverò un lavoro, che canterò ogni domenica le lodi del Signore e soprattutto prometto di non rubare più. Garante di questa lettera di parole, come viene definita nel gergo carcerario dei riformatori giovanili, è la famiglia Bird. James fa i suoi primi passi da uomo libero, dopo 3 anni di detenzione come se volasse sulle nuvole. È felice. Potrà cantare col suo nuovo amico Bobby nel suo gruppo gospel, e non solo. Ora ha una famiglia, una vera, i Bird. Va a vivere con loro e siccome è uno sportivone, tenta prima con la carriera di boxer, poi ci prova col baseball, ma si fa male a una gamba. E da quel momento si dedica anima e corpo alla carriera di cantante. Agli inizi degli anni 50 la musica popolare americana sta compiendo cambiamenti epocali. L'era delle grandi band si sta concludendo, lasciando il posto ai suoni più moderni del blues e del rock and roll. Un terreno estremamente fertile per lo stile innovativo di James Brown, che trova subito il modo di attecchire e svilupparsi. I Gospel Stralighters si scrollano di dosso la loro patina religiosa e diventano The Flames. Please, please, please. James Brown scrive questa canzone appena uscito dal riformatorio insieme a uno dei componenti della band di Bobby Bird, Johnny Terry. Una demo del pezzo viene spedita ad alcune radio locali, ma i DJ sono riluttanti a mandarla on air. Ha un sound strano, difficile che possa piacere. James Brown insiste, tampina i responsabili dei programmi, è convinto che la sua canzone sarà presto un successo enorme e ci vede giusto. Dopo una sola messa in onda, la radio viene subissata di telefonate di ascoltatori che vogliono acquistare il disco, che chiedono di cosa si tratti, chi siano quei cantanti nuovi e quel nuovo sound. Ero sicuro che sarebbe piaciuta. Era una grande novità. Ma questo non bastava. Non era solo una questione della canzone. Io volevo diventare uno showman e sentivo che dovevo creare un modo nuovo di presentarmi, di fare spettacolo. Chi assisteva al nostro concerto doveva rimanere semplicemente sconvolto. James Brown sta pensando a qualcuno in particolare. Gorgeous George, alias George Raymond Wagner, famoso wrestler professionista americano. James è una sua performance. La gente impazzisce quando George si presenta sul ring. C'è qualcosa che fa ogni volta e ogni volta scatena la folla. Arriva preceduto da un valletto che gli srotola davanti un tappeto rosso e getta petali di rosa al suo passaggio. Una bellissima ragazza inonda il ring di Chanel numero 5. Infine George si presenta incappucciato e poi, con un gesto teatrale, si leva il cappuccio mostrandosi orgoglioso al suo pubblico e mandandolo in delirio. Il grande successo di Gorgeous George, che non è particolarmente forte come lottatore, eppure diviene il più famoso wrestler d'America, ispira James Brown. Sta pensando che anche lui può trasformare ogni suo concerto in un evento grandioso. La gente va in visibilio per certe cose, crearsi intorno un alone di importanza, fare del proprio personaggio un'icona di stile, certo uno stile sopra le righe, ma pur sempre qualcosa di diverso da tutti gli altri. James Brown non ha dubbi, è questo quello che ci vuole. È evidente che è lui il leader della band. Anche se con qualche dissapore iniziale, alla fine tutti i componenti dei Flames gli riconoscono un carisma unico e James diviene a tutti gli effetti un capo incontrastato. E siccome è un perfezionista attento a ogni minimo dettaglio, prende in considerazione ogni elemento dello spettacolo che intende realizzare. Al di là delle canzoni, si focalizza sulla sua persona, ovviamente, ma anche sugli altri componenti del gruppo. Bobby Schiffman, figlio del proprietario del famoso Apollo Theater di Harlem, con il quale James Brown manterrà un'intensa collaborazione per molti anni, ne ricorda la determinazione. Se devo citare un performer grandioso, il primo al quale penso è sicuramente James Brown. Era molto esigente, si faceva molta fatica a trattare con lui perché non ammetteva errori, era severissimo, ma alla fine devo dire che non è mai esistito un professionista pari a lui. Chi ha la fortuna di assistere a uno spettacolo di James Brown fin dagli inizi della sua carriera vive un'esperienza unica, di quelle indimenticabili. Una presentazione clamorosa precede il suo ingresso sul palco, dove lo attendono gli altri componenti della band. Sono tutti impeccabili nelle loro divise di scena e quando James arriva è un trionfo. Il suo look, studiato meticolosamente a tavolino, prevede una pettinatura cotonata molto appariscente che fa impazzire gli afroamericani. Il suo abbigliamento è sgargiante, i suoi abiti pieni di paillette, lustrini, pantaloni a zampa d'elefante esagerati, colori imprevedibili, insomma, uno sfolgorio unico. Poi parte la canzone e la gente non capisce più niente. Maceo Parker, sassofonista di James Brown per oltre 30 anni, ricorda la ferrea disciplina a cui lo showman sottoponeva tutti quelli della band. Dovevi essere sempre puntuale. L'uniforme, ecco, dovevi avere l'uniforme in perfette condizioni. Dovevi assolutamente avere il farfallino, dovevi. Le scarpe dovevano essere lucide. Lui si aspettava questo e non c'erano discussioni. Esempio, se mentre cantava si accorgeva che qualcosa non era proprio come diceva lui, si metteva davanti a te e apriva e chiudeva la mano, mostrando le cinque dita. Lo faceva seguendo il ritmo della musica e il pubblico pensava che facesse parte della coreografia, ma noi il significato lo conoscevamo bene. Voleva dire $5 di multa. Ma il marchio di fabbrica degli spettacoli di James Brown è la gag della cappa. Dopo un'ora di canzoni a ritmo serrato, di balletti, di urli all'ultimo fiato, James improvvisamente cade in ginocchio sul pavimento del palcoscenico. La sensazione che dà è quella di avere spinto troppo, di essersi sforzato oltre il limite. Si sta sentendo male. A questo punto, uno dei suoi collaboratori, di solito il presentatore Fats Gonder o Danny Ray, che sostituirà Gonder più avanti, arriva sul palco con una cappa, una mantella di broccato o di paillette scintillanti. Gliela appoggia sulle spalle e lo accompagna dietro le quinte, scusandosi per lui con il pubblico. James Brown ha cantato fino all'esaurimento totale. La band continua a suonare e il pubblico a quel punto inizia ad applaudire, a urlare, a chiedere a Brown di tornare. Lo showman con un balzo ritorna sul palco. Si toglie con gesto teatrale la cappa, afferra con energia l'asta del microfono e ricomincia a cantare con maggior vigore di prima, tra il fragore degli applausi. James si considera soddisfatto. Lo spettacolo è pronto, le canzoni ci sono, il gruppo è ben istruito, la sua immagine è definita, le gag sono eccezionali. James Brown and the Flames sono pronti ad affrontare la scalata verso un successo stellare. Il loro primo pezzo, quella Please Please Please, che James scrive appena uscito dal riformatorio, che nessun DJ vuole trasmettere e che invece ottiene un immediato successo, attira le attenzioni di qualcuno che ha un discreto peso nella discografia americana del momento, il club promoter e agente Clint Bradley. Clint suggerisce che il gruppo si chiami James Brown and the Famous Flames. Fa più effetto quel famous davanti. E poi organizza un incontro con Ben Bart, capo della Universal Attraction Agency, il più grande produttore musicale al mondo. Jack Bart, suo figlio, ricorda quel momento storico. My dad went down, saw James Brown perform. Mio padre andò a sentire James Brown. Capì subito che enorme potenziale avesse e firmò il contratto. Iniziò a investire molto sui Famous Flames. A questi loro primi concerti venivano addirittura organizzate delle lotterie. Il pubblico poteva vincere una macchina, non so, una pelliccia. Fecero di tutto per portare gente ai concerti, far vedere loro quel nuovo tipo di spettacolo, far sì che tornassero a casa e ne parlassero con gli amici. E la gente cominciò a impazzire. You know I feel alright. You know I feel alright, children. I feel alright. I magnifici destini. Oggi I magnifici destini vi sta accompagnando in quella che potrebbe essere definita un'esperienza multisensoriale. Anche se siamo in radio, stiamo cercando di trasmettervi quello che dovevano provare gli spettatori di uno show del grandissimo James Brown. Agli inizi degli anni 50, questa stella emergente del rhythm and blues and soul si fa strada negli Stati Uniti proponendo un'immagine di sé piena di forza, passione, sensualità. I suoi concerti sono qualcosa di incredibile, non solo canzoni, ma un'escalation di sentimenti che creano un filo diretto fra l'artista e il pubblico in platea. Essere a pochi metri da James Brown e dalla sua band, The Famous Flames, significa non poter stare fermi. Significa cantare a squarciagola con loro, ballare, muoversi, agitarsi, partecipare a un evento unico. Quella trovata della cappa che mi mettevo addosso verso i tre quarti dello spettacolo, mentre io fingevo di essere sconvolto, di non riuscire più a cantare, divenne il mio elemento distintivo. La gente lo sapeva che non era vero, aspettava solo che io balzassi nuovamente fuori. Ma piaceva, accidenti se piaceva. Devo proprio ammettere che fu un'invenzione determinante per il successo dei miei show. Dopo l'incontro con Bobby Bird, che tira James Brown fuori dal riformatorio dove è rinchiuso per rapina, dopo che i due amici hanno creato The Famous Flames e sono riusciti a firmare un contratto discografico con la Universal Attraction Agency, un altro magnifico destino si affaccia nella vita del nostro protagonista. Clint Bradley, il loro agente, è infatti promoter anche di un altro artista. È il 1955 quando Little Richard scrive e registra Tutti i frutti, mitica canzone che con il suo A Whoop Bop-a-Loo Mop-a-Wom-Bam-Boom, imitazione di una rollata di tamburo, diventa un clamoroso successo ed è oggi considerata il suono della nascita del rock and roll. Little Richard è della scuderia di Clint Bradley e quando la gente telefona a James Brown perché ha sentito la demo del suo pezzo Please Please Please, il ragazzo non ci può credere. Era il mio idolo. Tutti i frutti era semplicemente incredibile. Pensare che lo avrei probabilmente conosciuto mi dava i brividi. Si stava decidendo del mio futuro, voglio dire, un agente così importante come Clint, e mi stava telefonando. Ma io, più ancora che per il possibile contratto con qualche casa discografica, ero elettrizzato al pensiero di incontrare Little Richard. Tutta la musica che facevo veniva fuori da lui. Destinato a diventare un'icona del rock and roll, Little Richard, al secolo Richard Pennyman, ha un modo tutto particolare di cantare. Imita il suono del tamburo, ma anche quello del treno che passava vicino a casa sua quando era piccolo. Mescola il boogie-woogie al rhythm and blues e crea uno stile che influenza tutti i grandi nomi che lo seguiranno, da Elvis Presley a Michael Jackson. James Brown ha visto qualche suo spettacolo e ne è rimasto sconvolto. E quando Little Richard inizia a registrare i suoi primi successi, diventa un suo fan agguerrito. In soli 3 anni, Little Richard mette a segno la bellezza di 17 hit, diventando un vero mito. Il loro incontro, che avviene negli uffici di Clint Bradley, è sicuramente un magnifico destino nella vita di James Brown, ma lo è soprattutto una scelta assolutamente inaspettata che Little Richard comunica al suo agente. Ho avuto parecchi lutti nella mia famiglia. Mio fratello è morto di infarto, poi è mancata mia madre. Ho perso anche un caro amico e un mio nipote si è sparato. Allora ho pensato, il Signore mi sta dicendo qualcosa. Ho avuto una rivelazione. Ho deciso di diventare evangelista. Voglio stare con Dio. Nel momento del suo massimo successo, all'apice della sua carriera di cantante, Little Richard decide improvvisamente di lasciare lo spettacolo per diventare un pastore evangelista. Da quel momento e per molti anni canterà solo gospel nella sua chiesa. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. La decisione di Little Richard manda all'aria tutti i piani dei suoi collaboratori. Produttore, agente, musicisti, sono tutti increduli, ma soprattutto si domandano che cosa fare. Le serate sono già state tutte stabilite, i teatri di mezza America aspettano. Ma poi Clint Bradley ha un'idea. C'è James Brown. Lui and the Famous Flames possono sostituire egregiamente Little Richard. Sono fortissimi e la gente impazzisce per loro. Nel giro di pochi giorni viene organizzata la tournée che porta il gruppo in tutti i più importanti teatri d'America. A questo punto James Brown ne tira fuori un'altra delle sue. Non tutti possono essere presenti ai suoi concerti, per questo sta pensando di registrare un album dal vivo. È una cosa che in quegli anni non si fa e nessun discografico vuole ascoltarlo. Chi comprerebbe mai un disco della registrazione di un concerto? E allora lui si autofinanzia. Il tuo manager dovrebbe fare certe cose, ma se non le fa lui, allora io prendo la mia vita e le cose me le faccio da solo. Non sto certo ad aspettare gli altri. È la notte del 24 ottobre 1962. L'Apollo Theater di Harlem, New York, è stracolmo. È tutto pronto per la serata. James Brown si sta preparando nel suo camerino. Con lui Bobby Bird, l'amico di sempre. Gli abiti di scena sono scintillanti. La cappa per la gag finale è appoggiata su una poltrona. I musicisti hanno lucidato le scarpe a puntino. Non c'è una singola cosa che non sia stata studiata minuziosamente. La scaletta delle canzoni è stata ripassata 100, 1000 volte. Questo concerto è speciale perché diventerà un album e James Brown, che di solito è terribilmente pignolo, stasera è addirittura maniacale. Ci crede in quello che sta facendo. You're gonna miss me. Love sick soul. I don't mind. Can't grow cold. But I know you're gonna miss me. Contrariamente alle aspettative degli increduli discografici, Live at the Apollo diviene istantaneamente una hit. Il disco rimane per 66 settimane nella classifica dei top pop album. Nei negozi di dischi, in particolar modo quelli degli Stati del Sud, non è possibile soddisfare le richieste dei clienti e gli ordini dell'album vengono fatti a casse. I DJ di tutte le radio nazionali e locali trasmettono il disco per intero, inserendo la pubblicità solo fra il lato A e quello B. James Brown diventa così una leggenda vivente. La consacrazione arriva 2 anni dopo, con il TAMI Show, un concert film realizzato dalla American International Pictures. Sicuramente un progetto pionieristico. Si tratta di un precursore dei nostri video musicali. Il nome dell'evento, realizzato nel Santa Monica Civic Auditorium in California il 28 e 29 ottobre 1964, è un acronimo che sta per Teenage Music International. Vi partecipano i Beach Boys, Chuck Berry, Marvin Gaye, le Supremes, i Rolling Stones. Ma quello che dà a questo film una notorietà senza precedenti è la performance di James Brown, con la sua incredibile energia e i suoi leggendari passi di danza. The flames are right here tonight. Yeah, right here. James Brown and his famous flames. La sua performance è talmente incredibile che Keith Richards dei Rolling Stones dichiarerà in più di un'intervista che accettare di esibirsi subito dopo James Brown è stato il più grande errore della loro carriera. Non importa come abbiamo suonato, avrebbe potuto essere anche la nostra performance migliore, quella di tutta la vita, ma non era possibile superarlo. Ci convinsero a suonare per ultimi, dicendoci che saremmo stati il gran finale prima che tutti gli artisti salissero di nuovo sul palco. Ma il re della serata fu James Brown. James ha raggiunto il successo. Non è più povero, non deve più lucidare scarpe, né tantomeno rubare da mangiare. Ora può soprattutto esprimere se stesso e decide di farlo come meglio sa, con la musica. È da un po' che ha in mente una canzone, un sound particolare. La scrive di getto e di getto la registra, realizzando il disco in meno di un'ora. Il successo è strepitoso e con quella canzone vince il suo primo Grammy Award. Ma non solo, i critici musicali fanno risalire proprio a questo pezzo la nascita del genere funky, termine afro che sta a indicare quel particolare odore sprigionato da un corpo eccitato. Funky diviene per estensione sinonimo di cosa divertente, che dà piacere, e a sentirla questa canzone tutta di James Brown, musica e parole, è davvero divertente e piacevole. I magnifici destini. It's a Man's World è una ballata soul di ispirazione blues, distribuita nel 1966 dalla casa discografica King Records di Cincinnati. Si tratta di uno dei più grandi successi del Soul Brother No. 1, come viene soprannominato in questi anni il mitico James Brown. Oggi, I Magnifici Destini vi sta raccontando la sua storia. Da quando a soli 6 anni, figlio di una disastrata famiglia nera poverissima, fa illustrascarpe nel profondo sud segregazionista degli Stati Uniti, fino a quando viene rinchiuso in un riformatorio per rapina. L'incontro con Bobby Bird, con il quale fonda The Famous Flames, e quello con Little Richard, che influenza in maniera fondamentale la sua musica e la sua carriera, lo trasformano in una star osannata in tutti i teatri del paese. Le sue canzoni sono hit di grandissimo successo, che mantengono per mesi le prime posizioni nelle classifiche di vendita. Molto più che un semplice cantante, compositore di successo e showman di grandissimo talento, James Brown evolve la sua carriera su livelli ben più profondi. Nel 1968, infatti, scrive una canzone destinata a diventare un vero e proprio inno del popolo nero. Say it loud, I'm black and I'm proud. Dillo a voce alta, sono nero e ne sono fiero. È un grido di battaglia. Il titolo, che diventa uno slogan delle comunità nere, ha il merito di contribuire ad abolire il termine dispregiativo nigger a favore del termine black. Alcuni versi sono particolarmente significativi. James Brown ci mette l'anima e tutta la sofferenza del suo popolo. Nella sua autobiografia del 1986 è lui stesso a spiegarne la genesi. Beh, oggi vi può apparire obsoleta, ma a quel tempo era necessario insegnare l'orgoglio nero. Penso che quella canzone abbia fatto bene a tanta gente. Soprattutto piaceva quel verso che dice: muori sui tuoi piedi piuttosto che vivere sulle tue ginocchia. Ma se l'ascoltate bene, vi accorgerete che io la sfruttai come una canzone per bambini. Ci feci anche cantare un coro di bambini apposta, perché piacesse ai bambini e potessero imparare fin da piccoli il sentimento dell'orgoglio. Beh, persi parecchi fan in quel periodo, molti bianchi che mi avevano frainteso, ma io non me ne curai. Una dimostrazione del peso mediatico di James Brown arriva in un'occasione drammatica. Il 4 aprile del 1968 il reverendo Martin Luther King viene assassinato e in tutto il paese si verificano sommosse, attentati, manifestazioni anche molto violente. Una delle città più colpite è Boston, e James Brown si trova proprio lì. Al Boston Garden, proprio la sera dopo, è in previsione un suo concerto. Le forze dell'ordine pensano che sia meglio cancellare la sua esibizione. Troppi neri tutti insieme possono creare una situazione pericolosissima. C'è chi invece pensa che una cancellazione possa scatenare ancora di più gli animi. James Brown risolve la cosa a modo suo. Lo spettacolo ci sarà, e lui parlerà al pubblico. È una dimostrazione di grande coraggio la sua. Non si sa chi possa essere presente tra la folla. Stiamo parlando di un'epoca dove ancora non esistono metal detector e qualche testa calda con una pistola potrebbe fare una follia. Questa sera, prima di cantare, voglio ricordare qualcuno che ho avuto il piacere di incontrare di persona, che tutti noi ammiriamo tantissimo e che non è più con noi. Mr. Martin Luther King. Siamo qua per onorarlo e non per fare cose che lui non avrebbe approvato. Per questo ascoltate il mio concerto e poi tornate alle vostre case pacificamente. Se ha paura, non lo dà a vedere. Ma quello che è certo è che un uomo senza istruzione, che non ha mai parlato di non violenza, che non è un predicatore, riesce a tranquillizzare gli animi. La registrazione dello spettacolo diventa uno speciale televisivo intitolato The Night James Brown Saved Boston, la notte in cui James Brown ha salvato Boston, facendo di lui una leggenda per le genti nere e non solo. Per almeno altri 10 anni, da quella sera incredibile, The Godfather of Soul, il padrino del soul, come viene ribattezzato dai suoi fan, continua a produrre dischi di grande successo, a fare concerti per i quali trovare un biglietto è una lotta. Sul finire degli anni 70, però, molti idoli delle folle come lui, Aretha Franklin, Ray Charles, vedono una certa stanchezza nelle loro carriere. Arrivano altri personaggi. Il cambio generazionale non gli è favorevole e loro devono trovare il modo di rinnovarsi. Anche James Brown, come Ray e Aretha, partecipa con un cameo al film cult The Blues Brothers, che li fa conoscere al pubblico più giovane. The Dan Aykroyd, interprete con John Belushi del film, ricorda la grande interpretazione di James Brown. Era semplicemente meraviglioso in quella parte. Perfetto per interpretare il prete che canta gospel, perché quell'energia che volevamo, lui la metteva veramente nei suoi concerti. Landis e Belushi, e anche io, tutti volevamo lavorare con quelli che erano stati i miti della nostra gioventù. Ray Charles, Aretha Franklin, James Brown. Questa importante partecipazione al film The Blues Brothers ha il suo effetto. James Brown ritorna in auge anche presso i più giovani. 4 anni più tardi, nel 1984, gli arriva una proposta di collaborazione da parte del rapper e DJ nero Afrika Bambaataa, nome d'arte di Kevin Donovan, a cui si deve la diffusione dell'hip hop negli anni 80, nonché la fondazione della Universal Zulu Nation, associazione di rapper neri impegnati socialmente. Bambaataa ha una venerazione per James Brown, non solo come cantante, ma anche come figura di riferimento per gli afroamericani. Non è possibile dimenticare quello che ha fatto quella notte del 1968 a Boston. Pace, unità e divertimento sono le parole della nostra canzone. Questo in fondo è quello che ha sempre cantato James Brown. Il suo funky che cos'è? È divertirsi, trarre piacevolezza dall'amore, dalla musica e dagli amici. Un messaggio di unità per tutto il popolo nero. Grandi successi e grandi performance, ma anche grandi eccessi nella vita di James Brown. I 3 anni passati in riformatorio da ragazzo non sono l'unica volta in cui il padrino del soul finisce dietro le sbarre. I litigi con le sue varie mogli sono famosi per la loro teatralità e lo portano spesso in gattabuia, ma non solo. Nel 1988 viene arrestato ben 2 volte, in maggio per possesso di droga e armi illegali e a settembre per un rocambolesco inseguimento con la polizia sulla statale 20 vicino al confine tra la Georgia e il South Carolina. L'accusa è grave: possesso di armi non dichiarate, di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, guida pericolosa e chi più ne ha più ne metta. La sua difesa parla di macchinazione contro di lui. The Godfather of Soul si becca 6 anni, ma alla fine ne sconterà solo 3. Una volta uscito, il suo è un ritorno trionfale, che gli regala ancora grandi successi fino alla morte, avvenuta nel 2006. Il pubblico ama e amerà sempre quest'uomo, con quella sua stessa forza riflessa che lui non ha mai risparmiato sia sul palco che nella vita privata. Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up. Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, wait a minute.